un'attesa, solo il presente, e come unico rimpianto quello di non avere mai riso abbastanza. Oh, oh, oh, oh. E anche ciò che ti ha sbagliato prima o poi servirà a trovare una ragione per andare avanti e continuare a camminare, perché il tempo passa anche per noi. Diventato ieri.